America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Cominciamo con un paio di notizie. Faisal Shahzad, l'attentatore di Times Square, lo ricorderete quando si scoprì che c'era questa vettura che stava per esplodere vicino a una delle zone più affollate di New York, è stato condannato all'ergastolo. Il suo commento: sono felice perché o comunque un patto con Allah. L'altra non è una vera e propria notizia, ma uno sviluppo un po' della storia che abbiamo discusso ieri, la questione politica, le elezioni che arrivano a novembre, e cioè l'idea che prende corpo di un terzo partito. L'ipotesi che a gennaio un gruppo di politici, imprenditori, banchieri possa coagularsi per cercare di riunire il centro e puntare alle elezioni del 2012. Il candidato possibile, uno dei soliti nomi, è quello di Michael Bloomberg. Ma oggi vorrei parlarvi soprattutto di un seminario che si è tenuto alla Columbia University sul futuro dei fondi sovrani, un seminario, devo dire, che era porte chiuse, ma che qui ad America 24 abbiamo avuto la possibilità di ascoltare. E fra gli altri ho incontrato Joe Stiglitz, sentiamolo. Accounting frameworks do affect. Ecco, Joe Stiglitz, premio Nobel per l'economia, una celebrità nel suo campo, un po' pessimista, come avete sentito, per il futuro dell'economia americano. Però nella chiacchierata e poi nel suo intervento pubblico c'è anche una provocazione, perché Stiglitz dice che i fondi sovrani, anche dei paesi emergenti, debbono avere lo stesso trattamento di hedge fund e di altri investitori privati, vale a dire devono avere un accesso agli investimenti anche nei mercati, nelle democrazie industriali moderne, senza pregiudizi, perché sono dei fondi che presentano troppi vantaggi per poter essere trattati con sufficienza. Ecco, di investimenti di fondi sovrani noi in Italia ne abbiamo parlato a lungo, soprattutto in relazione all'investimento dei fondi libici in Unicredit, e dunque ho chiesto a Stiglitz se lui non ritenesse che forse qualche volta possono esserci dei rischi, e la sua risposta è stata chiarissima: certo che dei rischi ci sono, dice, però non vedo perché un fondo libico che investe in una banca italiana debba avere un trattamento diverso, sempre che ovviamente rispettino tutte le regole. Ecco, di tutto questo, del ruolo dei fondi sovrani, si è parlato a lungo in questa conferenza, e io ho ai microfoni di Radio 24 Franco Bassanini, presidente della Cassa Depositi e Prestiti in Italia, che è intervenuto al dibattito, tra l'altro con un ruolo molto specifico sulla questione della riforma delle regole e di quello che succederà al G20 finanziario in Corea. Intanto possiamo tirare le fila di questi due giorni di lavoro? Beh, diciamo, è un convegno a porte chiuse. Mario Platero è bravissimo e quindi è riuscito a infilarsi, ma era l'unico giornalista presente. Il punto unificante è che tutte queste varie istituzioni sono in grado e hanno come missione quello di finanziare progetti che hanno dei ritorni in tempi medio-lunghi. Naturalmente è emersa una cosa che sapevamo, cioè che queste istituzioni sono molto diverse tra loro, missioni anche parzialmente diverse, hanno logiche diverse, hanno problemi diversi, ma hanno dei punti in comune sui quali si è ragionato. Abbiamo ascoltato Joe Stiglitz, io ho avuto anche una chiacchierata così privata con lui in cui abbiamo parlato di Libia, Unicredit, ruolo di fondi sovrani anche negli investimenti non soltanto strutturali ma anche in quelli di capitale, e quando entrano magari nel capitale di una istituzione. Sappiamo che Larry Summers aveva delle posizioni diverse, più preoccupato, pensava che potessero esserci dei fini politici a volte in questi investimenti. Stiglitz dice di no, questo è un ragionamento vecchio di 2 anni fa, e dunque Stiglitz la pensa in modo più aperto. Secondo lei ha ragione Stiglitz? Ma io penso che nel fondo abbia ragione. C'è una distinzione che lei ha introdotto, Platero, che è importante. Ci sono 2 categorie di investimenti. Una categoria di investimenti per i quali l'apporto di tutti gli investitori a lungo termine del mondo va ricercato e assolutamente favorito, e sono il finanziamento di quei progetti di interesse generale che danno un contributo molto rilevante alla crescita e alla competitività dei vari paesi. Si tratta di ragionare su come creare condizioni e regole che favoriscano questi investimenti, che sono sostitutivi di quelli a carico dei bilanci pubblici, e che quindi evita di dover aumentare a dismisura la pressione fiscale sui cittadini. Diciamo che svolgono un ruolo di stabilizzazione, almeno così diceva Stiglitz, quindi c'è un ruolo anche in quel caso. Possono svolgere un ruolo di stabilizzazione, possono svolgere un ruolo di capitalizzazione, di rafforzamento del capitale di queste imprese. Allora, l'atteggiamento di Stiglitz, che sollecita all'apertura, è stato, direi, largamente condiviso a due condizioni. Che questi fondi, non tutti lo fanno, rispettano regole di trasparenza e di buona gestione, e dall'altra che non perseguano impropriamente obiettivi politici legati all'espansionismo politico di singoli paesi. Se queste due condizioni sono rispettate, questo apporto di capitali è benvenuto, e devo dire che le indagini svolte dicono che normalmente si tratta di buoni azionisti a pretendere di sovrapporvi proprie e improprie finalità. Bene, veniamo alle regole. Auguste Romanet, che è il suo omologo per la cassa francese, ha anticipato che il presidente Sarkozy porterà nel G20 in Corea l'istanza di differenziare, nel momento in cui si riforma il sistema finanziario, tra lungo termine e breve termine. E lei ha presentato un lungo paper, a lei è toccato l'incarico di codificare, di esprimere quali siano queste regole. Ecco, può anticiparcelo, perché questo sarà un argomento centrale al G20 in Corea? Intanto voglio dire che questa è una posizione largamente comune in Italia e Francia, e non solo, e noi siamo sempre stati supportati, siamo da diverso tempo supportati dal nostro Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giulio Tremonti, che condivide questa posizione, che anzi se n'è fatto protagonista in alcuni momenti importanti, propose all'Ecofin di 2 anni fa, ci fu accolta con qualche sufficienza e con qualche sorriso. Dopo 2 anni i primi 2 di questi fondi sono operativi e altri stanno partendo. Spesso queste regole sono state pensate, di proposito o no, in modo da favorire in maniera smaccata impieghi finanziari speculativi a breve termine, invece sfavorendo, disincentivando gli investimenti a lungo termine in progetti di interesse generale, di utilità collettiva, che sono quelli che contribuiscono alla crescita, che contribuiscono alla competitività, che quindi casomai, avendo forti esternalità positive, meriterebbero di essere incentivati. Allora, in termini concreti, dov'è che si chiederà di introdurre delle modifiche? Su che voci contabili? Su che strumenti? Sono aspetti che vanno corretti, per esempio la regola del mark to market, che si applica benissimo agli investimenti finanziari a breve, ma non riconosce il valore di lungo termine degli investimenti in infrastrutture, in energia e così via, che sono investimenti invece molto sicuri. Per esempio, un sistema di incentivi fiscali come quelli che hanno consentito in molti paesi europei in questi ultimi tempi di avere uno straordinario incremento degli investimenti privati nelle energie rinnovabili, o per esempio delle norme di agevolazione fiscale dei project bonds, delle obbligazioni legate alla realizzazione di progetti, sul modello di quello che Obama ha fatto negli Stati Uniti. Bene, ringraziamo il professor Bassanini, a presto. Ci sarebbero 1000 altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America e scriveteci su Facebook, ed eccoci alla canzone del giorno. Birra o urina? Beh, la domanda è interessante, soprattutto per Will Berman, che aveva lasciato il palco durante un concerto, ricordiamo, il batterista degli MGMT, dopo essere stato colpito da un bicchiere che si diceva era appunto pieno di urina. Bene, ieri il gruppo ha smentito, ha detto che si trattava di birra e dunque, secondo loro, un segno d'affetto inglese. Degli MGMT, Kids.